in primo piano. Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, ultimo venerdì dell'anno. Siamo al nostro appuntamento con i quotidiani italiani, le prime pagine dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che come potete immaginare, come la stragrande maggioranza dei quotidiani, titola, ha il titolo principale dedicato alle parole del Premier Gentiloni, che ieri insieme al Presidente Mattarella hanno ufficialmente dichiarato sciolte le Camere e quindi dato il via vero e proprio alla campagna elettorale. Il Sole 24 Ore sceglie in particolare un virgolettato di Gentiloni che è: non siamo più fanalino di coda, il governo c'è e governerà, perché naturalmente voteremo il 4 di marzo, in questo periodo il Parlamento è sciolto di fatto, però il governo, qualcuno che deve in qualche modo occuparsi dell'ordinaria amministrazione, c'è e Gentiloni ha garantito il massimo impegno. L'infografica della prima pagina del Sole 24 Ore è dedicata all'andamento delle borse nel 2017, è stato un anno ottimo per quasi tutte le borse, poi con alcune eccezioni, perché per esempio la borsa del Qatar è andata molto male per ragioni soprattutto geopolitiche e di contrasto con la borsa invece dell'Arabia Saudita, che gli investitori hanno preferito. Ma sono state in Europa tutte positive le performance, quasi tutte tra l'altro con degli aumenti a due cifre. Anche l'indice della borsa italiana, che si chiama FTSE MIB, è cresciuto del 15,1. Naturalmente i record li hanno fatti gli Stati Uniti anche per volumi dei mercati. L'indice Standard & Poor's è cresciuto quasi del 20%, il Dow Jones, che è il più antico e forse il più importante, del 25,6%, e il Nasdaq, che è il titolo nato per quotare le aziende tecnologiche, di cui ciclicamente si dice che magari verrà incorporato nel Nasdaq, in ogni caso continua a essere indice a sé ed è cresciuto quasi del 30%. Alle pagine 2 e 3 trovate il bilancio di questa 17ª legislatura con tutti i focus e sia infografiche che brevi schede per cercare di capire appunto che cosa veramente è stato fatto, che cosa resta da fare e di ciò che è stato fatto, cosa è stato fatto bene e cosa non così bene. Il Corriere della Sera, l'Italia al voto il 4 marzo, titolo semplicissimo, c'è un editoriale non sono frequenti di Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera, che si intitola La stagione delle incognite. La fotonotizia però è dedicata a un reportage organizzato insieme all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Edoardo Albinati e Francesca D'Aloia, Edoardo Albinati scrittore e Francesca D'Aloia regista, sono anche una coppia nella vita, hanno fatto un lungo viaggio in Niger e raccontano questo sabbia, aerei, trafficanti, e soprattutto hanno cercato di vedere questa situazione di crisi dal punto di vista dei bambini soli del Niger. Vi segnalo anche, richiamate in prima pagina e poi la trovate a pagina 3, l'intervista di Marco Galluzzo a Silvio Berlusconi. Sapete che ieri ha fatto parecchie dichiarazioni, dopo quelle sul reddito di dignità si è anche detto abbastanza sicuro che Forza Italia arriverà al 30%. Anche in questo caso si usa un virgolettato per titolare questa pagina: è stato un governo insufficiente, il PD, punto interrogativo, la sfida è tra noi e il Movimento 5 Stelle. Una lunga intervista, la trovate appunto a pagina 5 del Corriere della Sera. Abbiamo appena parlato di Niger, vi leggo allora per esempio la domanda sui soldati italiani in Niger, è d'accordo? Berlusconi risponde: abbiamo sempre votato a favore delle missioni dei militari italiani all'estero. Quando dei nostri ragazzi rischiano la vita per la pace e la sicurezza, facendo onore alla nostra bandiera, meritano di avere il sostegno dell'intero paese, che deve unirsi intorno a loro. Quindi non entra proprio nel merito di questa decisione presa da Gentiloni sostanzialmente, e che il Parlamento non avrà il tempo e il modo di ratificare, di appunto rispondere alle richieste della Francia e mandare dei soldati italiani in Niger. Ci fermiamo però un attimo per una prima pausa sul traffico. Mecal.com, l'eccellenza che funziona nelle macchine per la lavorazione dell'alluminio. Vi presenta in primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o WhatsApp o SMS. Se volete io sono anche su Facebook e Twitter. poi basta, altri social network no, su Twitter il mio account è @Giulia_Crivelli. Abbiamo visto Sole 24 Ore, Corriere della Sera, ecco La Repubblica, titolo molto simile, Mattarella scioglie le Camere, l'Italia al voto tra 65 giorni, e anche la fotonotizia è stata una fotografia scattata ieri a Paolo Gentiloni mentre era al Quirinale per incontrare il presidente Mattarella. Con La Repubblica in edicola il venerdì, il magazine della Repubblica, che ha una copertina molto interessante intitolata Ultimissime dagli scavi. Mentre Pompei restituisce nuove meraviglie, sapete che Pompei, grazie a una miglior gestione, grazie anche a nuovi fondi, sta vivendo proprio un rinascimento e nonostante ogni tanto arrivi qualche notizia di crollo qua e là, ma forse è inevitabile in un sito archeologico così antico e così esteso, e in ogni caso, oltre al caso Pompei, spiega il venerdì, in tutta Italia è tornata la febbre dell'archeologia. Davvero c'è ancora tanto da scoprire? Probabilmente sì. Da Aquileia a Mozia vi diciamo cosa e perché non possiamo smettere di cercare nel passato. La Stampa, anche a sua volta, dà la notizia, che del resto abbiamo sentito tutti ormai, dello scioglimento delle Camere, ma si concentra in particolare su quello che Gentiloni ha detto sulla questione delle banche. Sapete che la commissione di inchiesta sui disastri bancari del nostro paese si è insediata molto tardi, ha finito i suoi lavori per forza di cose perché è finita la legislatura. Sono venute fuori molte cose da queste audizioni, mischiate certo ai temi della campagna elettorale. Sulle banche Gentiloni, scrive La Stampa, si smarca da Renzi, addirittura ha detto che le audizioni sono state inutili, anche se poi nei giorni scorsi era stato promesso, soprattutto dal presidente di questa commissione, Pier Ferdinando Casini, che tutto ciò che è emerso di buono da questa commissione, da queste audizioni, verrà poi utilizzato per cercare veramente di migliorare il sistema di vigilanza in particolare e di governance delle nostre banche. La fotonotizia è dedicata a un reportage di Beppe Minello, che è andato a Bardonecchia, una località di montagna vicino a Torino, per vedere che cosa sta succedendo tra la neve sui sentieri dei migranti. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, avete forse visto anche dei servizi al telegiornale. Succede appunto che, visto che siamo in inverno, una rotta per andare verso la Francia, o magari in questo caso Bardonecchia è sicuramente una rotta per la Francia, ma probabilmente ci sono altri migranti che cercano di farlo, per esempio per andare in Svizzera o in Austria, e fa impressione vedere questi ragazzi fotografati appunto per questo reportage, i profughi a piedi tra i sentieri coperti di ghiaccio. Questo freddo ci ammazza, ma è l'ultima chance. Il Messaggero, voto il 4 marzo, campagna al via. Il Messaggero è l'unico giornale che proprio usa tutta la sua prima pagina, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonne, per questo titolo. Il presidente Mattarella firma lo scioglimento, il Consiglio dei Ministri ha fissato la data delle elezioni, pure appunto il 4 marzo. In prima pagina anche la notizia che avete sentito nel GR, perché il Messaggero è per eccellenza il quotidiano di Roma, e riguarda quella querela che si è innestata tra Roma e Parma, e in particolare tra il Lazio e l'Emilia Romagna, perché questi sono accordi per lo smaltimento dei rifiuti che vengono presi a livello regionale. L'Emilia Romagna rinvia l'accettazione di questo aiuto da dare al Lazio per smaltire, e a Roma in particolare per smaltire, i suoi rifiuti che continuano ad accumularsi. Tra l'altro l'emergenza potrebbe aggravarsi in vista del Capodanno. Il governatore dell'Emilia Romagna, e questo è il virgolettato riportato dal Messaggero, ha detto: Raggi è arrogante. Il Manifesto, ve lo segnalo subito perché nei due giorni scorsi colpevolmente non lo avevamo in mazzetta, colpevolmente nel senso che non era arrivato e quindi non lo abbiamo citato. Anche per il Manifesto la notizia principale è questa, anche se il titolo, come sempre, è un po' ironico, se vogliamo: a briglie sciolte. E poi viene messo quel virgolettato che Gentiloni ha inserito ieri nel suo discorso, forse per apparire un po' più brillante del solito, visto che viene accusato a volte di essere fin troppo pacato. Ha detto: come diciamo a Roma, non ci se crede a quanto invece l'Italia poi sia riuscita a uscire dalla crisi. E poi anche la notizia dell'invio di questa missione, che non è una missione formalmente di peacekeeping, non si dovrebbe andare a combattere, però il titolo del manifesto, già molto che dall'idea della posizione del manifesto fino appunto da queste parole, è: il governo mettere il metto, si va in Niger. Il giornale, fine di un incubo, e quindi anche qui fin dalle parole del titolo è molto chiara la posizione del giornale. Il premier sarà al colle, finalmente Mattarella scioglie le camere e si vota il 4 di marzo. Vi segnalo dal giornale anche la ripresa, ne ha parlato brevemente anche La Repubblica, ma quasi nessun altro giornale, di questa, io non mi era sfuggito ieri l'editoriale di Travaglio, sul direttore del Fatto Quotidiano, sulla prima pagina, il suo consueto editoriale, dove aveva scritto che questa legislatura, che poi alla fine appunto si è proprio conclusa formalmente ieri, andava sciolta nell'acido. E a queste parole ha risposto molto così addolorata, ma nel senso vero della parola, Lucia Annibali, che è quella giovane avvocatessa sfigurata dall'ex fidanzato proprio con dell'acido, ha subito non so quanti interventi per cercare di tornare a una vita normale, quindi ha stigmatizzato questa uscita di Travaglio. Il giornale riporta la vicenda a pagina 4. Ci si aspettava, almeno io forse ingenuamente mi aspettavo, che Travaglio stesso non scrivesse due righe. Invece il suo editoriale di oggi si intitola Anestesia totale e riguarda sempre le critiche al governo e al Parlamento, ma non si parla invece, non autocritica mai. E mi è venuto in mente, non so quanti ascoltatori lo ricordano, io sono del 69, quindi fa proprio parte della mia adolescenza, la serie Happy Days, il protagonista era Fonzi ed era famoso perché non sapeva chiedere scusa, cioè non gli riusciva proprio fisicamente, e secondo me Travaglio è un po' così, proprio è impossibilitato geneticamente a chiedere scusa. Il Foglio, con un breve editoriale, commenta questa vicenda e la intitola, questo commento, L'acido metodo Travaglio. Con la consueta leggerezza, Marco Travaglio ha commentato la notizia del giorno scrivendo che la legislatura, che sta per essere sciolta, si spera, nell'acido, è stata una delle peggiori della storia repubblicana. Al di là del giudizio politico, sempre legittimo anche quando infondato, il riferimento all'acido è stato giustamente condannato da Lucia Annibali, che di un'ignobile aggressione con l'acido che l'ha lasciata segnata sul volto è stata vittima, la quale si augura che aggressioni di questo tipo non debbano mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo. Anche a non voler dar troppo peso all'infortunio sull'acido, il fondo di violenza rancorosa, e io sono completamente d'accordo su questo, che spesso connota l'eloquio del direttore del Fatto, ha il sapore della peggiore esercitazione di retorica antiparlamentare ed è giustamente considerato un modello da quella parte politica che sogna di scassare la democrazia parlamentare. E il riferimento implicito è al Movimento 5 Stelle. Leggo l'ultima parte. La legislatura è una fase della vita democratica. Si può naturalmente criticare la sua produzione legislativa o il suo svolgimento politico, ma l'eccitazione costante all'odio nei confronti della politica è tutt'altra cosa. Non si può pretendere da una ruffa popoli un rispetto impettito delle istituzioni, ma il richiamo costante alla violenza verbale per giustificare l'odio anticasta non è un infortunio, ma è un metodo che oggi forse verrà condannato dagli stessi giornali che quotidianamente, o chissà quanto involontariamente, offrono con costanza sponde preziose per soffiare forte sulle vele dell'antisistema. Il confronto politico può essere aspro, ma dovrebbe rispettare il limite che separa la battaglia delle idee dalla denigrazione delle persone e delle istituzioni. Per rispettare questo limite, naturalmente, prima del tatto bisognerebbe avere delle idee diverse da un semplice vaffa. E io questo me lo questo è piccolo editoriale, me lo ritaglio perché a volte insomma si pensano le cose ma non si riesce a esprimerle così bene in così poche parole. E comunque naturalmente ringrazio anche gli ascoltatori che non sono d'accordo con quello che abbiamo letto, in generale con alcune di quelle che loro pensano essere le mie posizioni, perché c'è per esempio un ascoltatore che dice: invece voi pidini, io non mi sento una pidina. In ogni caso, grazie davvero a tutti gli ascoltatori che mandano messaggi, vuol dire che appunto prestate ascolto, vi sintonizzate e in qualche modo reagite, questo è sempre positivo, io vi assicuro, leggo tutti i messaggi. Veniamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, editoriale di Travaglio a parte, che abbiamo visto si intitola Anestesia Totale. Il titolo: le camere sciolte ma Gentiloni no, Niger, soldati agli ordini di Macron. Avvenire, si vota il 4 marzo, ma come sempre Avvenire cerca anche di avere uno sguardo molto più ampio, e allora sono due le notizie, tutte e due in realtà non buone affatto. Una è un bilancio degli operatori pastorali uccisi nel mondo nel 2017, sono 23. E l'altra notizia viene dall'Afghanistan, altro paese, altra crisi di cui ci dimentichiamo, comunque di cui ci occupiamo così a giorni, magari a giorni alterni, a settimane alterne direi. Strage di sciiti e i bambini muoiono sulle mine, anche perché l'Afghanistan probabilmente insieme allo Yemen è uno dei paesi dove ci sono più mine antiuomo, e naturalmente capita molto spesso che soprattutto magari bambini che giocano appena fuori dalle loro case muoiano per l'esplosione di queste mine. La Verità: finti terremotati in soccorso del governo, questa è una inchiesta della Verità, dice: dopo le polemiche sulla mancata consegna dei prefabbricati, sui social è un diluvio di messaggi tutti identici, finalmente torniamo nella nostra abitazione, sono scritti, secondo quanto accertato dalla Verità, da falsi profili generati da un algoritmo, gente che non esiste mentre quella vera è al freddo. Ultima segnalazione, ultima prima pagina prima della pausa, è Libero, che stamattina mi fa particolarmente felice. Da una parte ha una apertura completamente diversa, nel senso che ovviamente c'è la notizia sul voto al 4 marzo, però si prende quella parte del rapporto Istat che parla della differenza del costo della vita tra la provincia e le città. Chi vive in provincia risparmia 6.000 euro, ma la fotonotizia è un gatto, un bellissimo gatto simil persiano con grandi occhi azzurri e lunghissimi baffi bianchi, ma richiama, questa foto serve a richiamare una recensione fatta da Azzurra Noemi Barbuto a un libro che consiglio a tutti gli amanti di gatti, che è Gatti molto speciali di Doris Lessing, che oltre è scomparsa nel 2013, ma oltre a essere stata una grandissima scrittrice nonché premio Nobel per la letteratura, amava moltissimo i gatti, e questi racconti tra l'altro in questa edizione in particolare sono illustrati con dei disegni bellissimi di un'artista spagnola. Ci lasciamo un attimo per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Devo due risposte a due ascoltatori, a Emanuela che mi chiede su quale giornale l'approfondimento sull'archeologia è sulla copertina del Venerdì allegato oggi a Repubblica, poi il servizio è all'interno, e a Pierluigi che mi chiede conferma che sia sul Corriere il reportage di Eraldo Albinati dal Niger, sì, è proprio sul Corriere, richiamato in prima pagina. A proposito di politica estera, molto interessante il pezzo di Paola Peduzzi sulla prima pagina del Foglio, che prende spunto, credo, da questo articolo che è stato il più letto su Financial Times, sul sito di Financial Times negli ultimi due giorni, e parla di questi nuovi confini dell'Unione che prendono forma e si delineeranno sempre meglio man mano che proseguono i negoziati per la Brexit. Chi pagherà per tutte le dogane post-Brexit? E il caso di cui si parla, e che appunto era l'articolo più letto del Financial Times negli ultimi due giorni, è il caso Rotterdam, il porto, uno dei porti più importanti dell'Europa, e scrive appunto Paola Peduzzi: ieri Financial Times ha dedicato una bella analisi a Rotterdam e alla sua superiorità tecnologica rispetto ai porti inglesi, olandesi ai quali conviene che molte merci arrivino in Olanda e poi vengono trasportate sull'isola, in cui si dice un'altra verità sulla Brexit. Lasciare l'Unione Europea non è soltanto negoziati e legislazioni, è anche implementazioni e infrastrutture. Tra l'altro questo tema dei porti credo sia molto importante tenerlo sempre vivo anche per l'Italia, che sappiamo ha una sproporzione tra il trasporto che viene fatto su gomma e quello che per esempio viene fatto su treno, e comunque lo sfruttamento dei nostri porti. Siamo una penisola che sicuramente potrebbe essere migliorato per rendere le infrastrutture e gli spostamenti delle merci più efficienti. Passiamo alle pagine interne dei giornali, torniamo sul Sole 24 Ore. Quanto si è parlato di mutui negli ultimi anni, perché sicuramente i tassi bassi hanno favorito l'accensione di molti mutui. Maximilian Cellino a pagina 5 spiega: mutui, la tregua non è finita. Per chi ha un prestito in particolare a tasso variabile non ci sarà alcun rialzo significativo fino al 2019. E poi c'è un'interessante rassegna delle migliori offerte sul mercato per quanto riguarda appunto la scelta tra tasso fisso, tasso variabile, con tutte le questioni dello spread, che naturalmente è anche relativa a quanta percentuale della cifra che si ha bisogno si chiede. La copertina di Imprese e Territori invece ha una intervista ad Antonio Gozzi, che è presidente di Federacciai. Il tema naturalmente è l'Ilva, ma anche la ex Lucchini, quindi l'altra grande acciaieria, quella di Piombino. Secondo Antonio Gozzi, l'acciaio è ripartito, crescerà anche nel 2018, anche qui sperando naturalmente nell'Ilva, il cui futuro è, come scrive anche il Sole 24 Ore, appeso al TAR, a quel ricorso al TAR e alle bizze del governatore Emiliano. Soprattutto vedremo, però l'Italia ha l'opportunità di essere addirittura un competitor del colosso mondiale che è la Cina. Per quanto riguarda l'acciaio, non solo naturalmente. Vi dicevo, il reportage di Edoardo Albinati e Francesca D'Aloia lo trovate alle pagine 12 e 13 del Corriere della Sera. Aerei, bambini e trafficanti, il cuore sabbioso del Niger, che è proprio al centro, è circondato da altri stati africani e non sempre i rapporti sono facili. C'è in particolare il confine con la Libia, che è una delle ragioni per le quali viene chiesta questa missione di peacekeeping ai soldati italiani. Poi c'è quello col Chad, con la Nigeria, con l'Algeria e col Mali, quindi è sicuramente una anche posizione geografica strategica quella del Niger. Dagli Stati Uniti una notizia, trovate anche su altri giornali, non con questo risalto e questo approfondimento, viene da New York: dalla tolleranza zero alla prevenzione, così New York ha ucciso il crimine. Ricorderete senz'altro appunto questa semplificazione sostanzialmente giornalistica, tolleranza zero, che era la ricetta di un precedente sindaco di New York, Rudolf Giuliani, che comunque aveva prodotto degli ottimi risultati. L'approccio dell'attuale sindaco Bill de Blasio è diverso, viene chiamato appunto prevenzione. Il dato alla fine che conta è che in un anno ci sono stati 285 omicidi, che sono per carità tantissimi, ma è anche il minimo dagli anni 50. Molto interessante, questo è un tema che ci riguarda tutti, personalmente non so se più mi affascino o più mi spaventa, più mi affascini o più mi spaventi, regaliamoci un congiuntivo, come dice un mio amico, è quello dell'intelligenza artificiale. App, sensori e antiossidanti, così ti recupero il cibo anche grazie appunto a queste tecniche di intelligenza artificiale che permettono di intervenire anche su aspetti molto pratici come quelli del recupero del cibo o almeno dell'evitare di sprecarlo. Trovate tutto su Repubblica, pagina 27. Altro reportage che vi ho segnalato prima, pagine 10 e 11 della Stampa, di Beppe Minello da Bardonecchia: oltre il muro di neve con le scarpe rotte, la notte dei migranti sul confine francese. E ci sono l'inviato della Stampa ha incontrato tanti di questi migranti, riporta alcuni dei suoi virgolette, delle loro parole, e fa capire insomma quanto disperata una persona deve essere per intraprendere comunque una traversata del genere. non equipaggiati naturalmente con le tute, le giacche, le scarpe ultra tecnologiche che hanno gli alpinisti, per esempio. Un'altra notizia interessante, solo la stampa la dà, è sulle proteste che ci sono in questo momento in Iran. L'Iran, sapete, grandissimo paese, un'età media molto bassa, un problema naturalmente di influenza, di rapporti tra la religione di Stato e lo Stato stesso, è una repubblica appunto islamica, così si definisce. In questo momento anche l'Iran ha dei problemi economici, gli iraniani in piazza contro il caro vita, proteste e repressione. Da nord a sud, slogan e manifestazioni anti-Ayatollah, contestato l'intervento a sostegno di Bashar al-Assad, il dittatore siriano. Sulla liberalizzazione e legalizzazione della marijuana, o meglio, qui si tratta proprio di entrambe le cose, perché la marijuana è stata legalizzata in 7 stati americani: Colorado, Oregon, Nevada, Alaska, Washington, Maine e Massachusetts. Per quanto essere liberalizzata, purtroppo sappiamo che siccome anche qui a Milano basta chiedere, si sa dove andarla a comprare, quindi il problema è proprio quello della legalizzazione. Ma in California quello che sta succedendo è che da lunedì addirittura la vendita è libera, non è più appunto regolata in alcun modo, e a questo punto i piccoli produttori di marijuana temono il crollo dei prezzi. È molto bello l'approfondimento di Avvenire sugli sportivi che vengono da, sono extracomunitari e che quindi per esempio sarebbero sarebbero comunque da comprendere in questo problema dello ius soli, se sono, in particolare se sono nati in Italia, e ci racconta l'Avvenire questa storia intitolata poi Così nel calcio è già ius culture, grazie a un'iniziativa collettiva partita dal basso. La FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, ha modificato un codicillo che rendeva difficile iscriversi alle società sportive agli stranieri. Ora basta che il loro permesso di soggiorno sia in corso di validità, senza più scadenze draconiane. Tra l'altro a corredo di questo racconto c'è una recensione di questo libro che si chiama Il traguardo di Patrizia, che è un cartone animato, che spiega come si possono integrare sport e cittadinanza. La regista è una giovane regista, Rosalba Vitellaro, e il cortometraggio si intitola appunto Il traguardo di Patrizia, che ha vinto il premio UNICEF ed è anche stato presentato al Sport Film Festival di Palermo. E la regista dice che un giovane atleta debba attendere i 18 anni per portare il tricolore segna una sconfitta in partenza. Sempre dall'Avvenire vi segnalo un aggiornamento sulla battaglia che l'Avvenire porta avanti da tantissimo tempo, che è quella contro il gioco d'azzardo. Il tema, naturalmente l'abbiamo sentito molto spesso, è che dal gioco d'azzardo legale naturalmente è tassato e quindi arrivano ingenti entrate per lo Stato. Bisognerebbe sempre forse comprendere nella discussione su questi giochi di Stato quanto poi in realtà ci sia un boomerang quando il gioco diventa una dipendenza, quindi le persone per esempio lavorano di meno, addirittura perdono il lavoro perché giocano, e su questi giochi che fanno pagano anche delle tasse, e anche poi se si deve intervenire anche dal punto di vista medico, perché esiste naturalmente la ludopatia, che è una patologia. Su questo tema c'è una novità dal Piemonte di cui Avvenire dà ampiamente conto. Azzardo, il Piemonte c'è, ecco il piano regionale. Dopo la legge arrivano 6,8 milioni di euro da investire in cure, prevenzione e formazione. Ai paletti per le slot machine e le sale gioco si affianca un'assistenza ai giocatori patologici, ma soprattutto comunicazione e informazione ai cittadini. Una bella inchiesta, pagina 10 e 11 della Verità, che si occupa del welfare e soprattutto di tutte quelle misure che potrebbero, in altri paesi funziona, aiutare la bassissima natalità del nostro paese. Il titolo è «Le rette alte provocano la fuga dal nido e le culle restano vuote». In media si pagano, pensate, 311 euro al mese, ma si arriva sopra i 500. I posti pubblici non bastano e nel privato i prezzi sono ancora più alti e molte mamme sono costrette a rinunciare al lavoro. La seconda pagina ha un titolo diverso: i tagli fanno sparire i servizi di Stato, prende piede il welfare aziendale. Questo è un altro tema molto interessante, sul Sole 24 Ore se ne occupa molto, molto spesso, forse quasi tutti i giorni, Cristina Casadei, questo del welfare aziendale, cioè le aziende, non soltanto quelle grandi, anche le piccole e medie aziende, si stanno attrezzando per offrire dei servizi anche flessibili, cioè chi ha bisogno di una cosa, chi magari ha bisogno di un'altra, ai propri dipendenti, per appunto alleggerire i carichi magari familiari, i lavori fuori dall'azienda, che sono quello di madre, padre o di figlio, nel senso di dover assistere dei genitori anziani. Oppure anche semplicemente per chi magari non ha figli, non ha una famiglia, altro tipo di agevolazioni. E quindi questa crescita del welfare aziendale anche in Italia. Come vi dicevo, Libero ha poi questa bella recensione richiamata in prima pagina al libro di Doris Lessing, intitolata Il gatto raccontato dal premio Nobel, la trovate a pagina 27 di Libero. A proposito di Libero, di libertà, sempre dal Foglio, un bell'intervento di Simonetta Shandivashi un po' sul femminismo. Secondo molti, lo vedrete in questi giorni, femminismo è una delle parole del 2017, si è ricominciato a parlare di femminismo anche legato al tema degli scandali sulle molestie sessuali un po' in tutti i paesi. Simonetta Shandivashi prende un angolo un po' diverso, il suo articolo si intitola Libere da chi, e parte dal caso della modella Emily Ratajkowski, che ha postato delle foto in cui si rotolava nella pasta, foto così sicuramente molto ammiccanti, molto sexy, rivolte a uomini eterosessuali o magari anche a donne del suo stesso sesso che appunto hanno visto in quello un richiamo altrettanto sessuale. E però c'è stata questa esibizione di sé, della propria bellezza, ha provocato una guerra tra femministe, e su questo Simonetta Shandivashi ragiona. Ve lo consiglio, appunto, su un tema che sicuramente è giusto che faccia ragionare, faccia discutere senza prese di posizione troppo dure da una parte o dall'altra. Ci lasciamo un attimo per la seconda pausa sul traffico. Motori elettrici simotopgroup.com, la qualità che ha conquistato l'Europa. Vi presenta In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie davvero a tutti gli ascoltatori, stamattina particolarmente numerosi, che stanno mandando messaggi al 349-238-6666, all'ascoltatrice che chiede su quale giornale c'è quell'editoriale che io personalmente ritaglierò. È sul Foglio, il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara, che tra l'altro oggi davvero è pieno di spunti, non ho fatto in tempo a segnalarli tutti, però all'ascoltatrice, se lo comprerà, segnalo anche un bell'articolo di Giuliano Ferrara, che a New York ha vissuto molti anni e insieme alla moglie, che racconta appunto di New York, dove abbiamo visto il 2017 è stato anche un anno da incorniciare, perché è crollato il numero di omicidi, quindi in generale il tasso di criminalità. Ma è molto curiosa questa, perché insomma, chiunque sia stato a New York, sì, certo, è la città che non dorme mai, è la città con tante lingue, tante culture, ma è difficile da raccontare in poche righe. Giuliano Ferrara, con la sua felice penna, ci riesce. Torniamo alle pagine interne dei quotidiani, con storie un pochino più meno legate alla cronaca. Margherita De Bac ci racconta Nicola Pecile, 44 anni, originario di Fagagna, in provincia di Udine, che è uno dei 7 piloti collaudatori della Virgin Atlantic, che sapete è quella compagnia fondata dallo stesso fondatore della Virgin, cioè Richard Branson, che sta puntando molto, progresso tecnologico e sicurezza permettendo, sul turismo spaziale. Nicola, autista spaziale, così porterò i turisti a 100 km dalla Terra. È l'unico collaudatore italiano della Virgin Galactic, sarà come un Roma New York, mi sento un pioniere. E la foto è quella di questa Spaceship 2, che è proprio uno di questi velivoli che presumibilmente da qui a quando farà il primo viaggio ufficiale verrà ulteriormente modificato, ma che sicuramente assomiglia più a un'astronave che non a uno dei tanti aerei che siamo abituati a vedere. Molto bella la storia raccontata da Paolo Conti a pagina 25 del Corriere, si intitola L'olio di Adriano. A Tivoli, il direttore della Villa Adriana, che fu una residenza proprio voluta dall'imperatore Adriano, ha recuperato il parco, che ha un patrimonio di 3.500 ulivi plurisecolari, e appunto adesso quell'olio che verrà da lì non potrà che chiamarsi Olio di Adriano. Tra l'altro questa località dal 1999 è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Ci sono alcune foto, tra cui anche una veduta di questa Villa Adriana, pensate che in origine addirittura occupava 120 ettari, oggi sono 40, che comunque sono tanti. Nei piani di Andrea Bruciati c'è anche la possibilità di affiancare alla coltivazione degli olivi anche quella affiancare una vigna e quindi creare un vino, appunto, che a quel punto sarà il vino di Adriano. Ancora sull'intelligenza artificiale a pagina 40 e 41, la svolta, frigoriferi auto che decidono da soli, riconoscimento facciale, realtà aumentata per tutti. Secondo questo articolo, poi vedremo, ci ritroviamo qui tra un anno e vedremo, comunque il 2018 sarà l'anno della rivoluzione smart e Facebook lotterà contro le fake news. A proposito di bilanci, di riassunti di un anno che sta per finire, sulla Repubblica, il supplemento Super 8, un anno di foto, diario per immagini del mondo nel 2017, dal giuramento di Donald Trump all'esodo dei Rohingya, dal trionfo in Francia di Macron alla valanga di Rigopiano, ma anche la sfida della Catalogna a Madrid. Sono veramente delle foto bellissime, quasi un peccato vederle stampate sulla carta di un quotidiano che inevitabilmente non è la carta patinata di una rivista, ma sono comunque sono foto bellissime e dimostrano appunto che carta bella sì o no, la forza delle immagini. Visto che abbiamo parlato di Adriano, che forse è uno dei libri più belli, più importanti che lo riguarda, è Memoria di Adriano. Naturalmente non l'ha scritto lui, parliamo del libro scritto da Marguerite Yourcenar. A pagina 41 della Repubblica, siccome a Marguerite Yourcenar è dedicato un premio letterario in Francia, parla di lei in questo articolo che si intitola Due o tre cose che so di Yourcenar, Annie Ernaux, che oltre, secondo la Repubblica, a essere la più grande scrittrice francese di oggi, riceve appunto il premio dedicato alla più grande scrittrice francese di ieri, che è ormai scomparsa 30 anni fa, e racconta anche il suo incontro così fugace quasi, e guarda caso parla anche delle memorie di Adriano. Scrive Annie Ernaux: tra i suoi tanti libri potrei dilungarmi sull'importanza che hanno avuto per me le memorie di Adriano, scoperte al primo anno di università, così come su quei testi con i quali ho intrattenuto una sorta di conversazione interiore prima di accingermi a scrivere Gli anni, ossia Care memorie e Archivi del Nord. A proposito di libri, sulla Stampa un aggiornamento sul Salone del Libro che verrà. Sapete che c'è stato negli anni scorsi, un po' sfortunatamente secondo me, una specie di rivalità tra una nuova manifestazione dedicata ai libri a Milano, Book City, e invece lo storico Salone del Libro. Il Salone del Libro era organizzato dalla fondazione, dall'omonima fondazione, in questo momento che ha avuto dei problemi finanziari. La Fondazione del Libro va in liquidazione, ma il Salone guarda al futuro. Il sindaco Chiamparino ha promesso che darà spazio a nuovi soci, e tra l'altro dopo aver disertato l'ultimissima edizione, appunto per andare a alla manifestazione di Milano, torneranno al prossimo Salone del Libro di Torino la Mondadori e altri grandi editori. Un articolo curioso di Elisabetta Pagani, giudicate voi se la cosa vi, così, vi stuzzica, io personalmente la trovo un po' strana, però perché no, si può anche provare. La questione è quella di questi servizi che offrono, che affittano vestiti o accessori per qualche giorno, per una settimana. Quindi il titolo dell'articolo, addio vecchio armadio, l'abito lo porta al postino. La tendenza è affittare vestiti per occasioni particolari, perché sappiamo per esempio per il matrimonio a volte appunto si investe moltissimo nella mise di quel giorno e poi lo si conserva anche se forse non lo si userà mai più. Ma ci sono altre occasioni speciali, adesso è tornata molto questa idea di festeggiare in grande stile il 18° compleanno, poi naturalmente c'è il Capodanno e allora c'è questo excursus di Elisabetta Pagani sui siti soprattutto come Dress You Can a Milano, che offrono questi servizi. Per esempio, affittare una borsa di Miu Miu che costa più o meno 500 euro su questo sito Front Row Tribe costa 50 euro. E invece affittare un bustier di Alberta Ferretti che costa quasi 3.000 euro costa 170 euro e avanti così. A proposito di moda, perdonatemi un po' così l'excursus di leggerezza, ma appunto si sta avvicinando Capodanno, chi forse lo trascorrerà con una serata speciale avrà anche particolare cura della mise. E l'articolo di Veronica Timperi sulla prima pagina di Macro, il supplemento del Messaggero, a tutto colore. Verso il 2018 ci sarà appunto, almeno da quanto si è potuto vedere sulle passerelle, le passerelle di settembre che anticipavano quello che in alcuni negozi c'è già, ma comunque le collezioni per la primavera estate, si è visto tantissimo colore, quindi meno nero, più colore. Una bellissima storia a proposito di quei piccoli o artigiani o piccole medie aziende che spesso definiamo la spina dorsale dell'Italia, la racconta il giornale a pagina 22. È la storia di Rocco Onnis e Riccardo Dessì, sono gioiellieri di Sassari che fanno affari in America. Un piccolo laboratorio e la scelta di usare il web come vetrina, così la creatività ha innovato la tradizione. Questo è un tema molto interessante perché se è vero che l'e-commerce, la rete è in parte una minaccia per i negozi veri e propri, anche se naturalmente si tratta di trovare un equilibrio, la famosa multicanalità, cioè magari poter consultare un sito e poi comprare nel negozio o viceversa. È anche vero che la rete e quindi tutta la parte e-commerce può servire a dare una vetrina, come se fosse appunto un negozio virtuale, a un piccolo laboratorio di Sassari al pubblico di New York, dove sicuramente il piccolo laboratorio di Sassari non potrebbe mai aprire un negozio. A proposito di bilanci del 2017, li stanno facendo un po' tutti, il manifesto lo dedica tutto alle donne, alle battaglie di questo anno, con anche articoli importanti. Il titolo è Hanno vinto, la fotografia è di una donna che fa un salto con un grande lo sfondo di un cielo azzurro, velato appena appena da nuvole per nulla minacciose, e il manifesto scrive: ovunque nel mondo, da New York a Riyadh, dall'Argentina alla Tunisia, passando per l'Italia, le donne hanno alzato la voce, abbandonando l'abito delle vittime per ritrovare la forza della natura e della cultura femminile e femminista. E il 2017 che se ne va porta dentro di sé il seme di un promettente 2018. Quindi potremmo dire insolitamente ottimista il manifesto, perché spesso sulle questioni sociali tende a vedere tutto un po' troppo grigio. Invece, appunto, secondo il manifesto, anche nel 2018 proseguirà questo fruttuoso confronto attorno al tema femminismo e femminilità. Spesso negli anni scorsi ho percepito quasi che venga usata la parola femminismo sempre con un'accezione negativa, come se fosse appunto una presa di posizione negativa. Invece, se serve a discutere di disuguaglianze che ancora esistono, credo sia solo un bene. Ultimissima segnalazione dall'Avvenire, la sezione Agorà, si parla dei due concerti di Capodanno. Di quello di Vienna abbiamo parlato ieri perché lo dirigerà Riccardo Muti. A Venezia invece ci sarà il direttore coreano Myung Woon Chung Chung, saranno comunque in programma, c'è La Traviata, Otello, anche Puccini, quindi il titolo, il brindisi di Capodanno è italiano in questi due grandi appuntamenti che sono considerati un po' i più importanti in Europa per i concerti di Capodanno di musica classica. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia. E ci risentiamo domani alle 6:15 circa per la rassegna internazionale, alle 7:20 per quella italiana. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.